M. 35esima traccia. Di lui? Mai e poi mai. Cara Miss Woodhouse, ma come avete potuto fraintendermi così? Torcendo il viso, tutta afflitta. Harriet, esclamò Emma dopo un momento di pausa. Che intendete? Santo cielo, che intendete? V'ho fraintesa? Devo dunque supporre... Emma non poté dire altro. Aveva perduto la voce e si sedette, attendendo, piena di terrore, che Harriet rispondesse. Harriet, che si trovava a qualche distanza e col viso voltato dall'altra parte, non disse nulla lì per lì, e quando parlò fu con una voce quasi altrettanto agitata di quella di Emma. «Non avrei creduto possibile», cominciò, «che poteste fraintendermi. So bene che rimanemmo d'accordo di non far mai il suo nome, ma considerando quanto egli è infinitamente superiore a qualunque altro, non avrei creduto possibile che si supponesse che io intendessi un altro. Proprio Mr. Churchill. Non so davvero chi lo guarderebbe quando l'altro fosse lì vicino. Spero d'aver miglior gusto che di pensare a Mr. Frank Churchill che rispetto a lui a nessuno. E che abbiate potuto sbagliarvi così, voi, è sorprendente. Son certa che se io non avessi creduto che voi mi approvavate interamente e intendevate incoraggiarmi nel mio attaccamento, avrei fin da principio considerato che fosse quasi un'eccessiva presunzione osar di pensare a lui. Fin da principio, se non mi aveste detto che erano successe cose ancor più meravigliose e che c'erano stati matrimoni ad una disparità ancor più grande, queste furono le vostre precise parole, non avrei osato abbandonarmi a... non l'avrei creduto possibile. Ma se voi, che l'avevate conosciuto sempre... Harriet, esclamò Emma, riprendendosi risolutamente. Comprendiamoci adesso, senza possibilità di ulteriori sbagli. Parlate di Mr. Knightley? Sicuro, non ho mai potuto pensare altro che a lui, e così immaginavo che lo sapeste. Quando parlammo di lui, era quanto mai chiaro. Non proprio, replicò Emma con calma forzata, perché tutto quello che voi diceste allora mi parve riferirsi a un'altra persona. Potrei quasi asserire che voi faceste il nome di Mr. Frank Churchill. Sono sicura che si parlò del servizio che vi aveva reso Mr. Frank Churchill proteggendovi dagli zingari. Oh, Mr. Woodhouse, come dimenticate! Mia cara Harriet, io mi ricordo perfettamente la sostanza di ciò che dissi in quella occasione. Vi dissi che non mi meravigliavo del vostro attaccamento, che, considerando il servizio che egli vi aveva reso, era quanto mai naturale. E voi assentiste, esprimendovi molto calorosamente circa quel che sentivate a proposito di quel servizio, e ricordando persino quali erano state le vostre sensazioni vedendolo farsi avanti per soccorrervi. Ne serbo una viva impressione nella memoria. Oddio, esclamò Harriet, ora richiamo alla mente ciò che intendete. Ma in quel momento pensavo a qualcosa d'affatto diverso. Non erano gli zingari, non era Mr. Frank Churchill che volevo dire, no, con alquanta elevazione. Pensavo a una circostanza molto più preziosa. A Mr. Knightley, quando venne da me e mi invitò a ballare, allorché Mr. Elton non volle essere il mio cavaliere mentre non ce n'era altri nella sala. Codesta fu l'azione gentile, codesta la nobile benevolenza e generosità, codesto il servizio che fece sì che io cominciassi a sentire quanto egli era superiore a ogni altro essere sulla terra. «Mio Dio!» esclamò Emma. «Questo è stato un errore proprio disgraziato, proprio deplorevole. Che si deve fare?» «Allora, se mi avesti capito, non mi avresti incoraggiata. In ogni modo, almeno, non posso trovarmi peggio che se la persona fosse stata l'altra. E ora, è possibile?» Fece una pausa di pochi momenti. Emma non poteva parlare. Non mi meraviglio, Miss Woodhouse, riprese, che voi dobbiate sentire una gran differenza tra i due, nei miei riguardi come in quelli di chiunque. Voi dovete ritenere l'uno 500 milioni di volte al di sopra di me dell'altro, ma spero, Miss Woodhouse, che supponendo che se, per strano che possa sembrare, ma sapete che furono le vostre stesse parole che erano successe cose anche più meravigliose, matrimoni di più grande disparità avevano avuto luogo che tra Mr. Frank Churchill e me, e perciò sembra che se persino una cosa come questa possa essere accaduta prima, e se io dovessi essere così fortunata, più di quanto le parole non possono esprimere, da... se Mr. Knightley dovesse realmente, se lui non fa caso della disparità, spero, cara Miss Woodhouse, che voi non vi ci opporrete e non cercherete di mettere bastoni tra le ruote. Ma siete troppo buona per voler far questo, sono sicura. Harriet stava ritta presso una finestra. Emma si voltò per guardarla, costernata, e disse in fretta: «Avete idea che Mr. Knightley ricambi il vostro affetto?» «Sì», rispose Harriet modestamente, ma senza timore, «devo dire che l'ho». Gli occhi di Emma si ritrassero sull'istante, ed essa sedette meditando in silenzio, in un atteggiamento fisso per alcuni minuti. Pochi minuti bastarono per farle conoscere il proprio cuore. Una mente come la sua, una volta aperta al sospetto, fece rapidi progressi. Toccò, ammise, riconobbe l'intera verità. Perché era tanto peggio che Harriet fosse innamorata di Mr. Knightley che di Frank Churchill? Perché il guaio diventava tanto terribilmente maggiore per il fatto che Harriet aveva qualche speranza di contraccambio? Le attraversò la mente, con la velocità di una freccia, l'idea che Mr. Knightley non doveva sposare altro che lei stessa. La sua propria condotta, alla pari del suo proprio cuore, le si manifestò negli stessi pochi minuti. Vide tutto con una chiarezza che non aveva mai avuto la fortuna di possedere prima. Come scorrettamente aveva agito nei confronti di Harriet. Quanto sconsiderata, indelicata, irragionevole, senza riguardi era stata la sua condotta. Che cecità, che follia l'aveva guidata. La colpì con terribile vigore, ed essa era pronta a chiamarla coi nomi più cattivi che ci siano. Un po' di rispetto per se stessa, tuttavia, malgrado tutti quei demeriti, una certa preoccupazione per la propria figura, e un forte senso di giustizia nei riguardi di Harriet, non ci sarebbe stato bisogno di compassione per la ragazza che si credeva amata da Mr. Knightley, ma giustizia voleva che essa non fosse resa ora infelice da una mostra di freddezza. Fecero sì che Emma risolvette di rimanere seduta e di tollerare ancora con calma, perfino con apparente gentilezza. Invero, nel suo proprio interesse, conveniva indagare fino a che punto arrivassero le speranze di Harriet. E Harriet non aveva fatto nulla per perdere il riguardo e la premura che Emma aveva provocato e mantenuto volontariamente, o per meritare di essere disprezzata dalla persona i cui consigli non l'avevano mai guidata bene. Perciò, riscuotendosi dalla riflessione e dominando la propria emozione, si volse di nuovo a Harriet e, con accento più invitante, rinnovò il colloquio che, quanto al tema che l'aveva iniziato, la meravigliosa storia di Jane Fairfax, questo era ormai tramontato e svanito. Nessuna delle due pensava ad altro che a Mr. Knightley e a loro stesse. Harriet, che era rimasta immersa in un fantasticare non privo di conforto, fu tuttavia lietissima di venirne richiamata dalla maniera adesso incoraggiante di un tal giudice e di una tale amica come Miss Woodhouse, e non aspettava che un invito per far la storia delle sue speranze con un diletto grande, sebbene trepidante. Le trepidazioni di Emma mentre interrogava e mentre ascoltava vennero meglio nascoste di quelle di Harriet, ma non erano meno grandi. La sua voce non era vacillante, ma la sua anima era in preda a tutto il turbamento che dovevano creare una tale evoluzione di lei stessa, una tale esplosione di minaccioso malanno, un tal caos di emozioni improvvise e sconcertanti. Ascoltava con molta sofferenza interna, ma con grande pazienza esteriore, il racconto particolareggiato di Harriet. Non si poteva attendere che fosse metodico o ben costruito o ben narrato, ma una volta sfrondato di tutte le fiacchezze e le tautologie, conteneva una sostanza capace di abbatterla, specialmente corroborata com'era dalle circostanze che la sua memoria recava a sostegno del miglioramento d'opinione di Mr. Knightley nei riguardi di Harriet. Harriet si era accorta d'una differenza nel suo contegno dal momento di quei due decisivi giri di danza. Emma sapeva che in quell'occasione egli l'aveva trovata assai superiore all'aspettativa. Da quella sera, o almeno dal momento in cui Miss Woodhouse l'aveva incoraggiata a pensare a lui, Harriet aveva cominciato ad accorgersi che egli le parlava assai più che non solesse prima, e che aveva verso di lei dei modi davvero diversi, dei modi pieni di cortesia e di dolcezza. Negli ultimi tempi essa aveva avvertito ciò in grado crescente. Quando tutti avevano passeggiato insieme, egli era venuto così spesso a camminarle accanto e le aveva parlato in maniera così deliziosa. Pareva che volesse davvero conoscerla bene. Emma sapeva che questo era stato proprio il caso. Aveva osservato spesso il cambiamento, quasi nella stessa misura. Harriet ripeté espressioni d'approvazione e di lode da parte di lui, ed Emma sentì che corrispondevano esattamente a ciò che essa sapeva della sua opinione di Harriet. Egli la lodava per essere senza arte o affettazione, per avere sentimenti semplici, onesti e generosi. Emma sapeva che egli vedeva in Harriet tali lati encomiabili. Ne aveva parlato a lei più di una volta. Parecchie cose che vivevano nella memoria di Harriet, parecchi piccoli particolari dell'attenzione che egli le aveva mostrato, uno sguardo, un discorso, uno spostarsi da una seggiola a un'altra, un complimento implicito, una preferenza arguita, non erano stati osservati perché non sospettati da Emma. Circostanze che potevano gonfiarsi fino a una relazione di mezz'ora, e che contenevano molteplici prove per colei che le aveva viste, erano passate inosservate a colei che ora le udiva. Ma i due episodi a essere ricordati per ultimi, i due che a Harriet parevano più promettenti, non mancavano di qualche testimonianza da parte di Emma stessa. Il primo era il suo camminare con lei in disparte dagli altri nel viale dei Tigli a Donwell, dove essi erano rimasti a passeggiare per qualche tempo prima che venisse Emma, ed egli si era dato pena, come essa era convinta, di attirarla con sé lontano dal resto, e dapprima le aveva parlato in modo più particolare di quanto non avesse fatto innanzi, in un modo davvero molto particolare. Harriet non poteva ripensarci senza arrossire. Pareva quasi che le chiedesse se il suo affetto era impegnato, ma appena era sembrato che lei, Miss Woodhouse, stesse per accostarsi a loro, egli aveva cambiato argomento e aveva cominciato a parlare d'agricoltura. Il secondo episodio era che egli era rimasto a conversare con lei per circa mezz'ora prima che Emma tornasse dalla sua visita, proprio l'ultima mattina che egli era stato a Arfi, sebbene arrivando avesse detto che non poteva fermarsi 5 minuti e durante codesta conversazione le aveva confidato che, sebbene dovesse andare a Londra, lo faceva assai controvoglia, e questo era assai più, Emma sentiva, di quanto egli avesse confessato a lei. Il maggior grado di confidenza verso Harriet, che denotava quest'ultimo punto, le dette una grave pena. Riguardo alla prima di queste due circostanze, Emma, dopo un po' di riflessione, azzardò la seguente domanda. Poteva darsi che volesse, non è possibile che quando vi interrogava, come voi pensate, sullo stato dei vostri affetti, egli volesse alludere a Mr. Martin, che egli agisse nell'interesse di Mr. Martin? Ma Harriet respinse il sospetto con energia. Mr. Martin, no davvero, non c'è stato alcun accenno a Mr. Martin. Spero adesso di saper fare di meglio che essere innamorata di Mr. Martin o venir sospettata d'esserlo. Quando Harriet ebbe terminato la sua testimonianza, pregò la sua cara Miss Woodhouse di dire se non aveva buon fondamento per sperare. «Io non avrei mai avuto la presunzione di pensarci da principio», ella disse, «se non fosse stato per voi. Voi mi diceste di osservarlo attentamente e di lasciare che il suo contegno fosse la regola del mio, e così ho fatto. Ma ora mi par di sentire di poter meritare lui, e che se lui mi sceglie, non sarà poi una cosa tanto straordinaria». I sentimenti amari causati da questo discorso, i molti sentimenti amari, resero necessario da parte di Emma il massimo sforzo per metterla in grado di rispondere. «Harriet, ma tarderò soltanto a dire che Mr. Knightley è l'ultimo uomo al mondo che intenzionalmente darebbe a una donna l'impressione di sentire per lei più di quel che effettivamente egli senta». Harriet sembrava pronta ad adorare la sua amica per una frase così soddisfacente, ed Emma fu solo salvata da espansioni e carezze, che in quel momento sarebbero state un'orribile penitenza, dal suono del passo del padre. Egli stava attraversando l'atrio. Harriet era troppo agitata per incontrarlo. Non poteva calmarsi. Mr. Woodhouse sarebbe stato allarmato. Era meglio che lei se ne andasse. E perciò, col più pronto incoraggiamento da parte dell'amica, essa si eclissò da un'altra porta. E quando se ne fu andata, questo fu lo spontaneo scoppio dei sentimenti d'Emma. Oddio, potessi non averla vista mai. Il resto della giornata e la notte seguente furono a stento sufficienti per i suoi pensieri. Emma era sconcertata dalla confusione di tutto quel che le era capitato addosso nel corso delle ultime poche ore. Ogni momento aveva recato una nuova sorpresa, e ogni sorpresa doveva essere per lei motivo di umiliazione. Come capire tutto questo? Come capire gli inganni che essa aveva tramato contro se stessa e tra i quali era vissuta? Gli abbagli, la cecità della sua testa e del suo cuore. Rimase seduta, fece un giro, provò la propria camera, provò il vivaio in ogni luogo, in ogni positura. Essa sentiva d'aver agito con grande debolezza, d'essere stata ingannata dagli altri in un grado estremamente mortificante, d'aver ingannato se stessa in un grado più mortificante. Sentiva che era infelice e che probabilmente avrebbe trovato che il giorno presente non era che il principio della sua infelicità. Comprendere appieno il proprio cuore fu la cosa che tentò per prima. A questo scopo furono dedicati tutti i momenti liberi concessi dalle esigenze di suo padre e ogni momento di involontaria distrazione. Da quanto tempo Mr. Knightley le era stato così caro, come ogni suo sentimento dichiarava che era adesso? Quando era cominciato il suo influsso, questo tale influsso? Quando aveva egli preso nel cuore il posto che Frank Churchill aveva occupato una volta per breve tempo? essa riandò il tempo trascorso, paragonò i due, li paragonò come erano sempre apparsi nella sua stima, dal momento che era venuta a conoscere il secondo, e come avrebbero dovuto essere paragonati da lei in ogni tempo, se mai, per una benedetta sorte, le fosse venuto in mente di fare un paragone. Vide che non c'era mai stato tempo in cui non avesse considerato Mr. Knightley infinitamente superiore, o in cui le sue attenzioni non le fossero riuscite infinitamente le più care. Vide che nel persuadere se stessa, nell'immaginare, nell'agire al contrario, essa si era completamente ingannata ed aveva totalmente ignorato il proprio cuore e, in breve, che non era mai stata innamorata di Frank Churchill. Questa fu la conclusione della prima serie di riflessioni. Questa fu la conoscenza di se stessa alla prima domanda della sua inchiesta, che essa raggiunse, e senza spenderci su molto tempo. Ne rimase dolorosamente indignata, vergognosa di ogni suo sentimento eccetto quello rivelato a lei, il suo affetto per Mr. Knightley. Ogni altra parte della sua anima era disgustosa. Con vanità insopportabile, essa aveva creduto di conoscere il segreto dei sentimenti d'ognuno. Con arroganza imperdonabile si era proposta di sistemare il destino di ciascuno. Ora aveva la prova di essersi sbagliata in ogni senso, e non era che non avesse fatto proprio nulla, perché aveva combinato dei guai. Aveva fatto del male a Harriet, a se stessa, e aveva assai paura anche a Mr. Knightley. Se questo disparatissimo matrimonio avesse dovuto aver luogo, il biasimo d'avergli dato principio si riversava tutto su di lei, che l'attaccamento di lui essa doveva crederlo prodotto solo da consapevolezza di quello di Harriet. E anche se questo non fosse stato il caso, egli non avrebbe mai conosciuto Harriet se non fosse stata la sciocchezza di lei, Emma. Mr. Knightley e Harriet Smith. Era un'unione da far impallidire ogni meraviglia del genere. Il vincolo di Frank Churchill e di Jane Fairfax diventava comune, trito, dozzinale, in confronto. Non suscitava alcuna sorpresa, non presentava disparità alcuna, non forniva alcuna materia di discorso o di pensieri. Mr. Knightley e Harriet Smith. Che elevazione per lei e che abbassamento per lui. Emma inorridiva a pensare come ciò dovesse farlo scadere nell'opinione di tutti, a prevedere i sorrisi, gli scherni, l'ilarità che avrebbe provocato a sue spese, la mortificazione e lo sdegno del fratello, i mille inconvenienti per lui medesimo. Poteva essere? No, era impossibile. Eppure era tutt'altro che impossibile. Era un caso nuovo che un uomo dal talento di prim'ordine fosse cattivato da facoltà molto inferiori? Era un fatto nuovo che uno, forse troppo affaccendato per cercare, divenisse preda d'una ragazza che andasse in cerca di lui? Era nuovo che qualcosa in questo mondo fosse ineguale, incoerente, incongruo, o che il caso o l'occasione, quali secondi cause, guidassero l'umano destino? Oh, non avesse mai elevato Harriet. L'avesse lasciata dove avrebbe dovuto e dove gli aveva detto che essa avrebbe dovuto lasciarla. Se lei, con una dabbenaggine che nessuna lingua poteva esprimere, non le avesse impedito di sposare l'ineccepibile giovanotto che l'avrebbe resa felice e rispettabile nel grado sociale al quale essa avrebbe dovuto appartenere, tutto sarebbe andato bene, non ci sarebbero state tutte queste orribili conseguenze. Come Harriet poteva aver avuto la presunzione di innalzare i suoi pensieri a Mr. Knightley? Come aveva potuto osare di immaginarsi la prescelta da un tal uomo prima di riceverne assicurazione? Ma Harriet era meno umile, aveva meno scrupoli di prima. Pareva che sentisse poco la propria inferiorità, sia di mente che di posizione sociale. Era parsa accorgersi di più dell'abbassamento che avrebbe compiuto Mr. Elton sposando lei, di quanto non sembrasse ora accorgersi di quello di Mr. Knightley. Ahimè, non era stata colpa sua anche questa? Chi si era data pena, se non lei stessa, di mettere in testa a Harriet idee della propria importanza? Chi se non lei le aveva insegnato che doveva elevarsi se le riusciva e che meritava molto un'alta posizione nel mondo? Se Harriet da umile era divenuta vanitosa, anche questo era colpa sua. Fino a questo momento in cui era minacciata di perderlo, Emma non aveva mai saputo quanto della sua felicità dipendesse dall'essere la prima per Mr. Knightley, la prima nell'interesse e nell'affetto. Persuasa che fosse così, e ritenendo di avervi diritto, essa ne aveva goduto senza rifletterci, e solo ora che temeva di venir soppiantata, sentì che importanza enorme ciò avesse avuto. Per molto tempo, moltissimo tempo, sentiva di essere stata la prima, poiché, non avendo parenti femmine da parte sua, non c'era che Isabella che potesse avanzare un titolo paragonabile al suo, ed essa aveva sempre saputo esattamente quanto egli amasse e stimasse Isabella. Lei era stata la prima per lui per molti anni trascorsi. Non l'aveva meritato. Spesso era stata negligente o riottosa, non tenendo conto del suo consiglio, o anche opponendovisi deliberatamente, cieca alla metà dei suoi meriti e pronta a litigare con lui perché egli non voleva riconoscere la sua falsa e insolente stima dei propri, ma pure per legame e abitudine di famiglia e per la virtù del suo animo eletto, egli l'aveva amata e aveva vigilato su di lei fin da quando era ragazza, con uno sforzo per migliorarla e un'ansia perché essa agisse bene, quali nessun'altra persona aveva condiviso. Nonostante tutti i propri difetti, essa sapeva di essergli cara. Non poteva dire molto cara. Quando però i suggerimenti della speranza che dovevano seguire a questo punto si presentavano, essa non poteva presumere di dar loro libero corso. Harriet Smith poteva ritenersi non indegna d'essere specialmente, esclusivamente, appassionatamente amata da Mr. Knightley. Lei non poteva. Non poteva lusingarsi con nessuna idea di cecità nel suo attaccamento per lei. Aveva ricevuto una prova molto recente dell'imparzialità di esso. Come si era scandalizzato per il suo contegno verso Miss Bates. Come si era espresso direttamente ed energicamente con lei in proposito. Non troppo energicamente perché lei potesse offendersene, ma troppo, troppo energicamente perché ciò provenisse da sentimento più tenero d'una retta giustizia ed una chiaroveggente benevolenza. Essa non aveva speranza, nulla che meritasse codesto nome, ed egli poteva nutrire per lei quel genere d'affetto che era adesso in questione. Ma c'era una speranza, talvolta assai tenue, tal'altra molto più forte, che Harriet potesse essersi illusa e stimasse più del dovuto le sue attenzioni a lei. Essa doveva desiderare che così fosse, per bene di lui, anche se per lei non ci fosse stata altra conseguenza che il suo restare a scapolo tutta la vita. Se avesse potuto essere certa di questo, in vero, del suo non sposarsi affatto, credeva che sarebbe stata perfettamente contenta. Pur che egli continuasse a essere lo stesso Mr. Knightley per lei e per suo padre. Lo stesso Mr. Knightley per tutti, pur che tra Donwell e Arthur non si fosse perduto alcunché di quel prezioso scambio d'amicizia e di fiducia. La sua pace sarebbe stata pienamente garantita. Il matrimonio effettivamente non avrebbe fatto al suo caso. Sarebbe stato incompatibile coi suoi doveri verso suo padre e con quello che essa sentiva per lui. Nulla avrebbe potuto separarla da suo padre. Non si sarebbe sposata, anche se Mr. Knightley avesse chiesto la sua mano.